io glielo faccio nei conti. Dai, buono! Guarda! Sì, anche a me, guarda! Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O concedi Immacolata, Madre Vergine Maria, questa nostra compagnia sia a te raccomandata. Origine Immacolata, Madre del Redentore, stai noi vicino nell'ora della prova, aiutaci a portare gli uni i pesi degli altri e fa che non dubitiamo mai dell'amore del Padre, oggi e sempre. Amen. Nel secondo mistero doloroso contempliamo la flagellazione di Gesù. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Stop.